potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. scuolaformazionecinofila.it. Pota TV, cani, neuroscienze, solitudine e biofilia. Milioni di persone, prima di uscire di casa e chiudere la porta, compiono un gesto che ritengono, sai, profondamente premuroso. Lasciare la televisione accesa? Esatto. Prendono il telecomando, mettono su un canale di cartoni animati o magari un programma del mattino. L'idea è quella di riempire il silenzio, no? Fare un po' di compagnia al cane. Che sembra una cosa dolcissima da fare, assolutamente. Sembra un'attenzione affettuosa, ma chi studia le neuroscienze animali avverte che potremmo in realtà trasformare i nostri salotti in vere e proprie pentole a pressione biochimiche per i nostri cani. È roba forte, sì. Decisamente. Oggi la nostra esplorazione punta proprio a decodificare le dinamiche nascoste della mente canina. Abbiamo sotto la lente un'analisi molto molto dettagliata di Michele Amico. Lui è un educatore e formatore cinofilo. E questo documento incrocia etologia, neuroscienze e un'applicazione tecnologica chiamata potatv.it. Potatv.it, esatto. L'obiettivo di oggi è capire perché i normali schermi fanno danni veri e come i cicli biologici di un cane richiedano una gestione completamente diversa. E guarda, è un'indagine che ribalta un sacco di convinzioni comuni sul benessere animale. Anche se, prima di addentrarci nei meccanismi cerebrali, da ricercatrice credo sia cruciale inquadrare l'approccio etico che, insomma, permea tutta questa ricerca. Certo, la premessa fondamentale. Esatto. La tecnologia che esamineremo oggi non è stata assolutamente concepita come una sorta di babysitter digitale. Cioè, non esiste alcuno strumento tecnologico capace di sostituire una passeggiata, l'interazione sociale o il semplice annusare un prato. Chiaro, non è per parcheggiare il cane davanti alla TV. Assolutamente no. Lo scopo di questi studi è fornire uno strumento di supporto per mitigare lo stress nei momenti di inevitabile isolamento, ma sempre inserito in un percorso educativo strutturato. Ed è una distinzione necessaria da fare per chi ci ascolta. L'idea non è automatizzare la cura del cane, ma gestire i momenti di assenza in modo che non siano distruttivi, ecco. Praticamente sì. E per capire quanto possano esserlo, distruttivi intendo, dobbiamo guardare a cosa succede fisicamente nel cervello di un cane quando viene esposto a un normale programma televisivo. Perché sai, viene spontaneo pensare che un cane, pur non capendo la trama di un film, si renda conto che quella scatola luminosa non è la realtà. E invece la scienza ci dice che non è affatto così. Il punto centrale risiede proprio nell'architettura stessa del cervello, in particolare nelle aree più antiche. Quelli primordiali, diciamo. Esatto. Jack Panksepp, che è un vero pioniere delle neuroscienze affettive, ha mappato in modo super approfondito le reti neurali situate nelle zone sottocorticali, che poi sono quelle che noi esseri umani condividiamo con quasi tutti i mammiferi. Ok, e cosa ha scoperto di così rivoluzionario? La scoperta fondamentale di Panksepp è che per queste aree primordiali il concetto di finzione, cioè, è del tutto inesistente. Non hanno i filtri per distinguere un'immagine da un evento reale. Un momento, cerchiamo di analizzare bene questa cosa. Noi esseri umani abbiamo una corteccia prefrontale molto sviluppata, che ci fa da scudo logico. Sì, ci permette di razionalizzare. Eppure, se ci si riflette, la teoria di Panksepp è visibile anche nel nostro comportamento. Nel documento c'è l'esempio classico del cinema, no? Bellissimo quell'esempio. Chi guarda un thriller ad alta tensione sa perfettamente di essere seduto al sicuro sulla poltrona. Sa che il sangue è finto, che c'è un regista dietro la telecamera, ma il corpo umano reagisce comunque. Assolutamente. Il battito cardiaco accelera. Le mani sudano. Si prova vera paura. Precisamente. E quella reazione fisica avviene perché le nostre aree sottocorticali stanno percependo un pericolo imminente dai suoni e dalle immagini. Cioè, stanno letteralmente scavalcando la logica della corteccia prefrontale. Come se il nostro cervello antico urlasse «pericolo!», mentre la parte razionale cerca di calmarlo dicendo «ehi, è solo un film!». Esatto. Ora, nel caso del cane, la parte razionale capace di operare questa astrazione è semplicemente assente. Quando un cane vede un'immagine muoversi in modo repentino o sente un suono forte provenire da uno schermo, la sua reazione neurale non ha alcun filtro logico. Per lui è un evento reale. Che sta accadendo lì, nel suo territorio, in quel preciso istante. Pazzesco, vero? È incredibile. Quindi vive in una sorta di realtà dove ogni stimolo è tangibile e immediato. E per mappare come i mammiferi elaborano questa realtà, la ricerca di Panksepp si concentra su 7 sistemi emotivi primari. Sì, ne ha individuati diversi, ma per il nostro discorso sulla solitudine e sull'impatto degli schermi, ci sono 3 circuiti neurali che dominano la scena. Il sistema panic o grief, il sistema seeking e il sistema rage. Ok, partiamo dal primo, il panic, che, leggendo l'analisi, mi sembra il motore di tutto il problema della separazione. Senza dubbio, il sistema panic, noto anche come circuito dell'urto o del dolore sociale, gestisce proprio la sofferenza acuta dell'isolamento. Ricordiamoci che i cani sono mammiferi sociali profondamente complessi. Animali da branco, insomma. Esatto, la loro biologia si è evoluta per millenni all'interno di un gruppo. Nella natura ancestrale, trovarsi improvvisamente soli equivale a una vulnerabilità estrema, una concreta minaccia per la sopravvivenza. Quindi quando la porta di casa si chiude e il cane rimane solo, quel sistema si attiva come un allarme. Un vero e proprio allarme biologico. Genera una sofferenza fisica legata al distacco. E spesso si banalizza questo momento, no? Liquidandolo con l'idea che il cane debba semplicemente abituarsi. È un errore comunissimo. Invece c'è un'analogia molto chiara nella documentazione per comprendere questa sensazione di distacco e ricongiungimento, quella della persona a casa che aspetta il compagno. Sì, fammi riprendere quell'esempio, poi ti prende benissimo l'idea. Visualizziamo una persona a casa che aspetta il partner, che magari è uscito per una breve commissione. La persona sa che il partner è nel quartiere, è al sicuro, non c'è alcun pericolo. Un'assenza totalmente razionalizzata. Esatto. Eppure, nel momento in cui la chiave gira nella toppa, la persona avverte un microscopico, istintivo senso di sollievo. È vero, capita a tutti. Quell'impercettibile rilassamento non è un processo logico. È il cervello profondo che registra la riunificazione del nucleo sociale. Ti dice che il sistema di sicurezza è di nuovo integro. E se lo proviamo noi, che sappiamo dove si trova l'altra persona? Immaginiamo un cane. Lui non ha alcuna nozione del tempo. Non sa se tornerai tra 5 minuti o tra 10 ore. Nessuna. Il suo sollievo al rientro delle persone in casa è così esplosivo proprio perché pone fine a uno stato di tensione biologica prolungata, attivato da quel sistema panic di cui parlavamo. Ma cosa succede se quel dolore, quel panico, non trova subito una risoluzione? Perché sai, molti tornano a casa e trovano i cuscini smembrati, i mobili masticati. E la reazione umana tipica è pensare, ah, il cane mi ha fatto un dispetto perché è arrabbiato che l'ho lasciato solo. Il famoso dispetto, che è una proiezione puramente umana e non ha basi scientifiche. La neurologia descrive una cascata emotiva molto, molto diversa. Cioè? Come evolve questa cosa? Se il cane non possiede una solida maturità emotiva per gestire l'isolamento, il dolore del sistema panic non rimane lì statico. Si trasforma. Diventa il sistema seeking. Il sistema di ricerca. Esatto, il circuito dell'esplorazione, motivato da una spinta chimica potentissima. Il cane inizia a cercare ossessivamente una soluzione. Perlustra la casa, annusa le fessure sotto la porta, indaga ogni traccia odorosa del proprietario per cercare di ricongiungersi a lui. E in una fase di attivazione totale. È spinto da questo bisogno vitale. E poi? E poi, quando questa ricerca fallisce ripetutamente, l'energia enorme generata dal seeking ristagna. Non trova uno sfogo, non c'è un successo, e a quel punto subentra la frustrazione, che accende il terzo circuito, il sistema rage. Che non è la rabbia come la intendiamo noi. No affatto. È un sovraccarico intollerabile di tensione. Mordere un cuscino, distruggere un mobile è un atto meccanico per scaricare fisicamente un'energia inespressa, un'energia che sta letteralmente mandando in cortocircuito il sistema nervoso. Ed è qui che la situazione si fa veramente interessante. Perché di fronte a questo scenario di noia e frustrazione, l'istinto umano è fornire una distrazione. Accendiamo la TV commerciale, mettiamo i cartoni animati, pensando così non penserà di essere solo. Sembra logico, ma è un disastro. Stando ai dati, questa mossa peggiora drasticamente la situazione chimica del cane. Ed è fantastica l'analogia usata nel testo. Mettere cartoni animati a un cane lasciato solo è come dare dosi massicce di caffeina a un soggetto che sta avendo un attacco d'ansia. È un paragone azzeccatissimo, perché la TV interviene in modo distruttivo sul normale ciclo biochimico. In etologia, ogni azione sana per un predatore sociale deve completare un arco preciso, diviso in tre fasi. Ok, vediamole. La prima è la fase appetitiva, guidata proprio dal sistema seeking. È il momento in cui si accende l'interesse. Il cane sente un rumore o vede uno stimolo sullo schermo. Questa fase è alimentata da una massiccia produzione di dopamina, che è il neurotrasmettitore del desiderio e dell'anticipazione. Quindi il cane sente un suono frenetico dalla TV e il suo cervello viene inondato di dopamina. Entra in seeking. Esatto. E il problema sorge con la seconda fase, la fase di consumo. In natura, dopo aver individuato lo stimolo, l'animale compie un'azione, insegue, interagisce, insomma, analizza l'oggetto. E a livello neurologico, qui intervengono i neuroni specchio. Che servono per elaborare l'azione che stanno vedendo. Precisamente. Ma per far sì che questa fase sia valida, l'azione deve avere una sua logica spaziale e temporale. La televisione umana, invece, è progettata appositamente per catturare la nostra attenzione in modo frenetico. Un'inquadratura dura 3 secondi, poi c'è un taglio improvviso, un rumore forte, un'altra inquadratura decontestualizzata. Quindi il cervello del cane cerca di elaborare l'azione, ma prima che possa capirla, l'immagine cambia di nuovo. È come se cercassi di leggere un libro a cui strappano le pagine mentre lo stai fissando. È frustrante. Fallendo questa seconda fase, diventa impossibile raggiungere la terza, che è quella cruciale, la fase di... arresto. O fase di liking, esatto. In un ciclo sano, dopo che l'azione è stata consumata, i livelli di dopamina crollano. Subentra la soddisfazione, un senso profondo di rilassamento biochimico. Il cane si mette a cuccia tranquillo. Ma con la TV commerciale... questo non avviene mai. Il cane riceve continui picchi di dopamina, senza mai avere il tempo di elaborare nulla fino alla fine. Il ciclo rimane aperto. Praticamente rimane bloccato in un loop infinito di aspettativa. La dopamina continua a salire, genera uno stato di iperccitazione che, come dicevamo prima, precipita direttamente nel sistema RAG. Esatto. Il cane non è intrattenuto, è chimicamente sovraccaricato. E l'unico modo per abbassare quella pressione è distruggere qualcosa. Abbiamo preso un momento di solitudine e lo abbiamo trasformato in un supplizio neurologico. È un meccanismo davvero insidioso, perché a vederlo da fuori, il cane che fissa lo schermo sembra semplicemente molto attento. E invece il suo sistema nervoso è sotto stress continuo. E questo ci porta alla soluzione. Quindi, cosa significa tutto questo a livello pratico? L'analisi ci porta allo strumento sviluppato per risolvere questo problema, la piattaforma potative.it. L'approccio di questo strumento è l'esatto opposto della programmazione standard. L'obiettivo non è catturare l'attenzione in modo ossessivo, ma chiudere il ciclo, fornire quella chiusura emotiva di cui il cane ha disperatamente bisogno. E la cosa che mi ha colpito di più è come sono processate le immagini, i colori, ad esempio. È un aspetto tecnico affascinante, vero? Noi esseri umani abbiamo una visione tricromatica. La TV normale è calibrata per noi. I cani invece hanno una visione dicromatica, centrata sul giallo e sul blu. Quindi per loro la nostra TV è un disastro visivo? È un ammasso confuso di tonalità grigiastre. Aumenta la fatica cognitiva. I contenuti di questa piattaforma invece sono post-prodotti e ricalibrati cromaticamente proprio per i loro occhi. Diventano immediatamente leggibili. E poi c'è la questione della velocità. Questo è un dettaglio pazzesco. I cani elaborano molti più fotogrammi al secondo rispetto a noi. Hanno una frequenza di fusione critica dello sfarfallio molto più alta, sì. Quindi un'immagine che a noi sembra fluida, a loro sembra uno stroboscopio, dei flash fastidiosissimi. Esatto. Se non rallentiamo le immagini, stiamo fornendo un contenuto fisicamente fastidioso. Rallentando le riprese, come fanno su questa piattaforma, si dà il tempo ai neuroni specchio del cane di processare l'azione. Finalmente la fase di consumo può completarsi. L'informazione entra, viene compresa e consumata, senza l'ansia dei tagli veloci. E questa chiarezza prepara il terreno per l'innovazione più importante, quella che spezza il loop della dopamina. Le pause. Esatto, la presenza di pause reali. I contenuti non sono un flusso ininterrotto, ci sono momenti in cui l'azione si ferma, svanisce. Quelle pause sono l'innesco per la fase di arresto. Il cervello del cane riceve il segnale biologico che è tutto finito. Il rilascio di dopamina si interrompe, l'arco si chiude e si passa dal seeking al liking. Il cane si rilassa, appoggia la testa e si disimpegna. E qui c'è un dettaglio pratico fondamentale da sottolineare per chi ci ascolta. Non bisogna costringere il cane a guardare lo schermo. Assolutamente no. L'interazione naturale è intermittente. Guarda 2 o 3 minuti, elabora, c'è la pausa e poi va a dormire. Ma anche se va a dormire o si gira dall'altra parte, il sistema continua a lavorare attraverso l'udito, giusto? Sì, il design sonoro è cruciale. Anche nel dormiveglia, l'apparato uditivo del cane, che è sensibile oltre misura, continua a monitorare l'ambiente. La piattaforma trasmette un tappeto sonoro di frequenze naturali che opera una vera e propria desensibilizzazione passiva. Una specie di scudo acustico per le aree sottocorticali. Praticamente allena il cervello a non reagire con picchi di allerta se fuori passa un camion o sbatte una porta. Il sistema nervoso è già sintonizzato su una frequenza di calma. E questo concetto di frequenze naturali solleva una questione importantissima, esplorata dalla ricerca. La biofilia. Un tema bellissimo. La biofilia è l'ipotesi secondo cui tutti noi, essendoci evoluti nella natura, conserviamo un bisogno fisiologico di connessione con gli elementi naturali. E invece viviamo in case che sono scatole di cemento isolate acusticamente. Un vuoto urbano che ha fama di stimoli sia il cane che noi. Genera un silenzio che mette in allerta. Portare immagini di natura, animali che si muovono lentamente, trasforma la TV in una finestra biofila. Manda il messaggio. C'è vita, c'è un ecosistema, sono al sicuro. E i benefici non sono solo per il cane. No, affatto. L'impatto sul sistema nervoso è interspecifico. Guardare la natura in movimento abbassa il cortisolo e il battito cardiaco umano. Anche se stiamo facendo altro, tipo leggere o lavorare al PC con questo schermo acceso in sottofondo. Esatto, e si genera quella che chiamiamo sincronizzazione della calma. Se il cane è rilassato, l'umano percepisce un ambiente armonioso e il cane, a sua volta, legge i nostri parametri, il respiro calmo, confermando che l'ambiente è sicuro. È un circolo virtuoso pazzesco. È il momento di tirare le fila di questa nostra lunga chiacchierata. Quello che emerge dall'analisi di Michele Amico è che il benessere animale non riguarda solo intrattenerli o evitare che distruggano il divano. Significa proteggere il loro delicato equilibrio biochimico, fornire loro una chiusura emotiva che i media commerciali ignorano totalmente. Hanno bisogno di strumenti ingegnerizzati per non finire logorati da circuiti di frustrazione invisibili mentre ci aspettano. In chiusura, questa cosa mi fa sorgere un pensiero spontaneo che vorrei lasciare a chi ci ascolta. Dimmi. Se abbiamo appena scoperto che i cervelli dei nostri cani finiscono intrapponati in circuiti di dopamina stressanti a causa di video frenetici privi di una fase di arresto, beh, non dovremmo forse chiederci cosa sta facendo il feed infinito dei nostri social media ai nostri cicli biologici umani? È una bellissima domanda. Lo scorrimento infinito, le notifiche costanti. Esatto. Forse abbiamo tutti disperatamente bisogno di imparare a programmare la nostra personalissima fase di arresto. Per oggi la nostra esplorazione finisce qui. Alla prossima. Ciao a tutti. Potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. Scuolaformazionecinofila.it